Orecchie ai libri, un podcast originale per ascoltare la voce degli autori, i suoni della storia, il timbro della società, delle pubblicazioni di Pagina 1 Edizioni. Dopo Edith Wharton, sempre dagli Stati Uniti, un'altra raccolta di racconti, Chi ha fatto le carte, di Ring Lardner. Pagina 1 ne ha pubblicato la seconda edizione nel 2019, prima edizione ad opera di Tranquilla Editori. Contemporaneo alla Wharton, Ring Lardner ci illustra un'altra America, quella della provincia e dello sport. Già nel podcast dedicato a Edith Wharton abbiamo parlato del contesto sociale, quello dell'età dell'oro, tutta esteriorità senza sostanza. Infatti, dopo la guerra di secessione 1861-1865, trionfano il materialismo e la volgarità, volti a soffocare le attività intellettuali e culturali. Ring Lardner nasce nel 1885 nel Michigan e si realizza inizialmente come giornalista sportivo. Il suo primo libro di successo è del 1916, You Know Me All, che possiamo definire narrazione epistolare per mano di un giocatore di baseball di una lega di basso livello. Come scrittore affermato, finisce nelle mani di Maxwell Perkins, da vedere Genius del 2016 con Colin Firth e Jude Law. Maxwell Perkins è il celebre curatore editoriale di Fitzgerald e Wolf, due penne peraltro degne di prossima attenzione in questo ciclo di podcast dedicati a Pagina 1 Edizioni. Tornando a Lardner. Lardner muore nemmeno cinquantenne per complicanze della tubercolosi nel 1933. A Fitzgerald addirittura ispira Aben Ort, un personaggio di Tenera la notte, ed è il secondo scrittore preferito di Holden Caulfield, l'indimenticabile personaggio partorito da Salinger. Lardner è dunque un riferimento del suo tempo. Perché parlare di uno scrittore così? Lardner, con tutto il suo odio per l'umanità intera, se stesso compreso, con tutta la sua disperata misantropia immersa nell'alcol, è innanzitutto attualissimo. Oggetti del suo brillante sarcasmo, della sua satira amara e beffarda, sono il cinismo, il materialismo, l'avidità, la stupidità di un certo tipo di atleti, sono i millantatori, la sopraffazione sui deboli per condizione fisica, psicologica ed economica. Il suo stile, un parlato vivace, ha entusiasmato persino Virginia Woolf. Nella postfazione di Piero Pignatta, anche traduttore di questi racconti, della collana Bosco di Latte, Pagina 1 Edizioni, viene sottolineata la critica che l'autore fa a una società in cui i sentimenti umani, merce rara, sono oggetto di scherno, sono solo arida finzione, come i capelli ribelli addomesticabili da una passata di brillantina. Per vincere, meglio equipaggiarsi di noncuranza e di un'aurea insensibilità. Il realismo che riempie le pagine di Lardner è in continuità con altri autori di poco antecedenti, Twain, James, Howells, Dreiser, Norris, Crane, Garland. Per costoro il compito dello scrittore realista e naturalista è quello di esplorare ogni aspetto della vita e della personalità dell'uomo, anche quelli sordidi e disgustosi. Howells diceva che realismo è il trattamento fedele di un materiale fatto di banalità. Quattro racconti, dunque, in cui il nostro scrittore Ring Lardner si diverte magistralmente a mettere a nudo fatti e personalità mediocre, criticandone cinico la bassezza spirituale con moltissima ironia. I quattro racconti sono Un po' di brillantina, Campione, Un nido d'amore, Chi ha fatto le carte. Nei primi tre il narratore è esterno, marginale rispetto agli eventi, ma è sempre in rapporto coi personaggi, ci fa capire che li conosce, che sa di che parla, non è fiction. L'ultima storia si distingue perché ha un soffetto e piagnucoloso monologo, voce femminile. L'artista Lardner dirige quella voce perché il lettore possa immedesimarsi nel gruppo di uditori che ascoltano con attenta intolleranza e sconcerto incredulo la banalità e l'inconsistenza concettuale delle parole dette. Abbiamo già detto che si parla di provincia, anche quando di fatto la cornice topografica è data da grandi città, Chicago, Detroit. Anche nei grandi spazi urbani può prevalere lo spirito focalizzato sul privato, sull'interesse egoistico, una concezione sociale di chiusura e diffidenza. Provinciale è quel contesto, per come possiamo intenderlo, in cui i ruoli sono definiti e trasversali a situazioni più diverse. Nel primo racconto, direi ride bene chi ride ultimo, cioè un po' di brillantina, il protagonista è Jim Candle, sicuro della propria ottusa e sgradevole persecutoria attitudine allo scherzo, finisce per accorgersi che il riso è un boomerang affilato. Nel secondo racconto, il campione, campione dal pugno facile, il campione è una caldaia di avido livore violento che scalda e soffoca il ring, che scalda e soffoca il fratellino storpio, le donne che null'altro sono che trofei di passaggio, tutto ciò che non è se stesso è ad uso, consumo e scarto. La boxe, peraltro, è stato uno sport dalle molteplici facce, oltre a essere uno dei tanti campi di speculazione e maneggi di quest'epoca in cui conta soprattutto il successo negli affari, è stato però anche dove la tecnica, cioè l'intelligenza tecnica, ha saputo trionfare sulla pura aggressività, come quando Gentleman Jim Corbett, di origine irlandese, ha sconfitto nel 1892 John L. Sullivan. La boxe è stata una pratica contestata dalle associazioni religiose e che ha avuto atleti che hanno disprezzato apertamente le convenzioni che condannavano i legami sessuali tra bianchi e neri, come il peso massimo famosissimo di colore, Jack Johnson. Assieme allo sport, alla vita di paese, Lardner parla della dedizione all'alcol, della caducità della gloria basata sull'apparenza vuota di significati. L'alcol è dove annega la frustrazione, appunto, di un'ex diva. La compiacenza indifferente di contorno del marito la schiaccia opprimendola sul fondo ed eccoci nel terzo racconto, un nido d'amore. Mentre il whisky veniva versato, egli osservò con più attenzione la padrona di casa, Celia appunto, e pensò a quanto sarebbe stato più attraente se avesse usato un minimo di finezza nel coadiuvare la natura. Le guance, la bocca, gli occhi, le sopracciglia dovevano essere stati, gli parve di indovinare, assai superiori alla media in fatto di bellezza, prima che lei si mettesse a fare di sopra degli esperimenti. Esperimenti che, per la verità, apparivano piuttosto maldestri. Era bella, malgrado gli sforzi che faceva per esserlo di più. Quindi il nido d'amore è apparenza frivola e scialba. Una donna, dice Celia, è infelice senza l'amore. Sia pure in una reggia. La contraddizione palese, non accettabile del buon costume, trionfa nel monologo, quarto racconto, sui rapporti di coppia. Che cosa stavo dicendo? Oh sì, dei gatri. È buffo per una coppia come loro due sposarsi quando sono così diversi sotto ogni punto di vista. Non ho mai conosciuto due persone dai gusti tanto differenti. Per esempio, il signor Guthrie va matto per le automobili e la signora Guthrie le odia di tutto cuore. Per lei è una sofferenza continua tutto il tempo che sta in macchina. A lui piace spassarsela, ballare, giocare a golf, pescare, andare a teatro e così via. A lei non interessa null'altro che le opere di beneficenza e le opere di bridge. E tuttavia vanno straordinariamente d'accordo, voglio dire, quando non stanno giocando a carte o facendo qualcos'altro insieme. E da che pulpito, direbbe Lardner, ma lo dice, mettendolo in bocca alla stessa narratrice. Prendete Tom e me invece e direste che fossimo fatti l'uno per l'altra e viceversa. Sembra che la pensiamo allo stesso modo su tutto. Beh, su quasi tutto. Le cose su cui non andiamo d'accordo sono cosette di scarsa importanza, come la musica. Tom va pazzo per il jazz, il blues e la musica da ballo in genere, adora Irving Berlin, Gershwin e Jack Kearns. Va sempre a caccia di queste cose alla radio, mentre io vorrei cose serie, classiche come Humoresque e Indian Love Lyrics. E poi c'è il teatro. Tom va pazzo per Ed Wein, io non ci trovo niente di speciale. Già il modo in cui rida le proprie spiritosaggini è sufficiente per rovinare tutto. Se devo spendere tempo e denaro, voglio vedere qualcosa che valga la pena, come The Fool o Lightning e la roba da mangiare. Tom insiste, per meglio dire, insisteva a fare un'abbondante colazione con frutta, cereali, uova, pane tostato e caffè. A me basta un frutto, una fetta di pane tostato e un caffè. Secondo me fa molto meglio. Nelle donne, di cui Lardner sottolinea l'atteggiamento passivo e il vittimismo, l'elemosina, ne percepisce forse una minima possibilità di riscatto, se non altro nel raggiungimento di un'autenticità di sentimenti. Nel racconto dedicato a Midge Kelly, truce boxer, lo sguardo si sposta di continuo dall'individuo alla società che lo ha prodotto e che al contempo ne subisce il fascino. Diventa uno scambio tra potenti, con gli stessi difetti, le stesse mancanze, mietitori di sofferenza psicologica e fisica. Kelly, sono stato incaricato dalla mamma di Emma Hersh di vedere che tu ti comporti come si deve con lei e gradiremo che tu stessi qui finché non l'avrai fatto. Non ci guadagnerete nulla a farmi di questi scherzi, disse Midge. Quella sera, tuttavia, non partì per Chicago. 2 giorni dopo, Emma Hersh divenne la signora Kelly e il regalo di nozze di Midge, una volta che furono soli, fu un solenne marrovescio sulla pallida guancia della sposa. Osservare e osservarsi sembra sollecitare Ring Lardner rispetto al presente. Parla alla sua contemporaneità, ma anche alla nostra. Ridere e non arrossire se non si ha la faccia per vergognarsi quando si crede che nulla importi. Un caro saluto da Elisabetta Groppo per Edizioni, pagina 1.